Ad alta voce, Elia Shilton legge Le linee d'ombra, dal libro The Shadow Lines di Amitav Ghosh, copyright 1988, tutti i diritti riservati. Traduzione di Anna Natotti. Dodicesima puntata. Ben presto cominciò il breve inverno di Calcutta. I laghi erano bellissimi in quella stagione e la nonna prese l'abitudine di accompagnarmi quando uscivo la sera per andare a giocare a cricket. Con mio sollievo, appena superati i cancelli, aveva il buon senso di lasciarmi e di andarsene per conto suo, ma qualche volta, mentre lanciavo in posizioni 10 o 11, la vedevo, macchiolina bianca, sulla sponda opposta del lago, camminare lesta e fermarsi di tanto in tanto per scambiare una parola con altre persone anziane che la sera venivano lì a passeggiare. I miei genitori erano felici delle sue passeggiate. Gli sentivo dire che era più facile convivere con lei, adesso che aveva preso l'abitudine di uscire di casa regolarmente e incontrare gente della sua età. Cominciò a trattenersi al parco anche quando la partita era finita da un pezzo. Spesso dovevo cercarla prima di tornare a casa e di solito la trovavo seduta su una panchina sotto i rami dei grandi alberi del lago, intenta a conversare con i suoi nuovi amici. Durante la cena, mio padre le sorrideva di buon umore e le chiedeva di che cosa avevano parlato. Per esempio, si erano fatti un'opinione sulla guerra con la Cina. «Ah, l'attualità non ci interessa. È del passato che parliamo», rispondeva la nonna. Scoprimmo che molti dei vecchi che andavano al parco erano venuti da Est prima o durante la partizione. Come la nonna, molti si erano stabiliti a Calcutta, nella nostra stessa zona che allora non era troppo affollata. Perciò non era strano che la nonna, durante le passeggiate al parco, incontrasse spesso delle persone che aveva conosciuto o di cui aveva sentito parlare a Dhaka. Una sera mio padre rientrò esausto dopo una serie di incontri di lavoro in ufficio. Non succedeva spesso che arrivasse così stanco e ogni volta la casa veniva invasa da una piacevole sensazione di crisi. In seguito mi sono convinto che quelli erano i momenti che i miei genitori desideravano di più. Mio padre, perché proprio in quelle occasioni, quando era stanco, inquieto e preoccupato, poteva gustare in modo più intenso e profondo gli impalpabili vantaggi di una vita che non si era mai discostata di un soffio dalle convenzioni. Mia madre, perché in tali circostanze poteva dispiegare al massimo la sua naturale padronanza delle arti domestiche. Ad esempio, la sua capacità di modulare volume e armonia della nostra casa fino a ridurli a un sussurro, ben sapendo che avrebbe mantenuto il ritmo perfettamente a tempo, nello stesso modo in cui un grande direttore d'orchestra riesce talvolta a ottenere nel tumulto della musica una perfetta semibreve di silenzio. In serate come quella, mia madre sapeva riconoscere i segni rivelatori sul volto teso di mio padre nel momento stesso in cui scendeva dall'auto. Lo accompagnava immediatamente nella loro camera al piano di sopra, poi tornava giù e in punta di piedi faceva velocemente il giro della casa. Ai domestici in cucina veniva ordinato di spegnere la radio, le finestre affacciate sulla strada venivano chiuse senza far rumore e io venivo messo in guardia dal giocare con pistole e fucili. Quando il silenzio avvolgeva la casa, tornava di sopra e tirava fuori un kurtà pulito e fresco e un pigiama e sospingeva con garbo mio padre verso la stanza da bagno. Mentre lui si lavava, lei tornava in cucina di corsa e gli preparava un tè come piaceva a lui, caldo, dolce, allungato con il latte, lo portava di sopra, nella veranda che dava sul giardino, e lo posava su un tavolinetto accanto alla sedia a sdraio. Quando lui usciva dal bagno lavato e rinfrescato, gli si sedeva vicino mentre beveva il tè e gli raccontava le piccole cose accadute quel giorno in casa con voce monocorde, quieta e consolatoria. Fu in una di quelle serate che mia nonna fece irruzione gridando: «Non immaginerete mai chi ho incontrato oggi al parco!» L'intrusione non piacque a mia madre, che cercò di farle capire che di qualunque cosa si trattasse poteva aspettare fino all'ora di cena, ma non ci fu modo di fermare la nonna. «Ho incontrato Minadi», disse senza prendere fiato. «Voi non la conoscete? La sua famiglia viveva in fondo alla nostra strada, ad Acca. È sempre informata su tutto e su tutti, è sempre stata così, già quando eravamo ragazzine. Comunque stavamo parlando di questo e di quello, recuperando il tempo perduto. È la prima volta che la incontro dopo molti anni, quando all'improvviso mi dà un colpo sulla mano e dice: «Ma lo sai che tuo cugino, uno dei figli di Jetha Moshai, vive qui a Calcutta con la sua famiglia? Se non mi sbaglio, dalle parti di Garia». Naturalmente sapeva che non lo sapevo. Sa sempre tutto di tutti. In ogni caso le ho detto di no, che avevamo perso i contatti e non avevo idea di dove vivesse. Lei piuttosto come lo aveva scoperto? Mi ha risposto che la sua cameriera lo ha nominato una volta, molto tempo fa, circa un anno fa. Allora naturalmente Minadi, visto com'è fatta, ha cominciato a fare domande e ben presto ha scoperto che era proprio lui, mio cugino, il figlio di Jetha Moshai. Per me è una fortuna che lei sia un gazzettino ambulante, perché adesso sta cercando di sapere con precisione dove vive, così potrò andare a fargli visita. Tacque, quasi senza fiato, e ci lanciò un'occhiata impaziente ed eccitata. Mio padre, non sapendo che cosa si aspettasse da lui, le fece notare con delicatezza che dopo tutti quegli anni probabilmente non si sarebbero neppure riconosciuti. La nonna si fece scura in volto. «Non ha importanza», replicò. «Siamo fatti della stessa carne, dello stesso sangue e ossa e finalmente, dopo tutti questi anni, forse saremo capaci di rimediare a tutta quell'amarezza e quell'astio». Poi, con un particolare tono di voce al quale nessuno osava opporsi, una voce che non sentivamo da un po' di tempo, disse a mio padre: «Non dimenticare di tenere pronta la macchina domenica. Minadi mi ha promesso di mandare la sua cameriera per condurci da lui». Al che mia madre emise un gridolino di sorpresa e aprì la bocca per dire qualcosa, ma mio padre le fece un cenno con la testa e lei si rimise a sedere in silenzio. Non era disapprovazione per ciò che la nonna aveva progettato di fare, al contrario. Lei avrebbe fatto lo stesso, solo che lo avrebbe fatto prima, perché per lei i parenti e la famiglia avevano un ruolo fondamentale. Erano ciò che dà al mondo forma e significato, le basi dell'ordine morale. Del resto la nonna aveva sempre sostenuto di non avere un forte senso della famiglia. Aveva sempre fondato il suo rigore morale a scuola, per esempio, su principi più generali e astratti. Con i suoi parenti, salvo poche eccezioni, era piuttosto diffidente. Ai suoi occhi apparivano come una barriera limitante fatta di sospetti e obblighi. Era del tutto naturale che mia madre si sorprendesse di questo improvviso sussulto di sentimenti familiari. Nessuno l'aveva mai sentita parlare dei suoi parenti, neppure di Mayadebi, a cui voleva molto bene, con la calorosa dedizione che le si sentiva nella voce adesso, mentre parlava dei figli dell'uomo che i suoi genitori avevano odiato più di chiunque altro al mondo. «Non so cosa abbia per la testa», disse più tardi mia madre con preoccupazione, «ma sono sicura che non ha nulla a che fare con suo cugino. C'è qualcos'altro che si agita dentro di lei». La domenica la macchina arrivò puntualmente e lo stesso fece la donna che ci doveva accompagnare a casa del cugino della nonna. Era una donna bassa, di mezza età, con una larga faccia rotonda e gli occhi sporgenti. Come ti chiami? Le chiese la nonna, squadrandola senza entusiasmo. Mrinmoye, rispose la donna, passando da una guancia all'altra una pallina di pan. Oh, Mrinmoye, le fece il verso la nonna, sollevando il mento. Era sempre crudelmente caustica con le cameriere, i cui nomi le sembravano troppo pretenziosi per la loro posizione sociale. Mrinmoye annuì, masticando lentamente la pallina di pan. Sì, disse con forte accento Noakali, è proprio lui. Di solito lo chiamavano Nidubabu. Faceva il bigliettaio alla stazione di Shonarpur, vicino a dove viveva mio fratello, ma dopo che è andato in pensione si è trasferito a Garia. Si interruppe per dare una lunga occhiata pensierosa a mio padre. Certo, lei saprà che è morto l'anno scorso di una malattia al petto. La nonna, sbalordita, ebbe un sussulto e si buttò su una sedia. Era chiaro però che la delusione era più forte del dolore. Rimase in silenzio per un po', coprendosi gli occhi con le mani. Poi si alzò in piedi e disse: «Non ha importanza, ci andremo in ogni caso. Forse sua moglie sarà in grado di darci qualche notizia sul resto della famiglia». «No, mamma, stammi a sentire», cominciò mio padre, ma lei tagliò corto. «Sì, ho deciso», disse spingendoci fuori. «Forza, muoviamoci». Mio padre, piuttosto contrariato, mise in moto e noi salimmo in macchina. La nonna, guardando fuori dal finestrino, non riusciva a capacitarsi di ciò che vedeva. Quando sono venuta l'ultima volta, una decina d'anni fa, c'erano le risaie lungo la strada. Era il tipo di posto in cui i ricchi di Calcutta costruivano le loro case con giardino, e adesso guardate, è sporco come la tana di un babbuino, tutto per colpa dei rifugiati che arrivano come una marea. Esattamente come abbiamo fatto noi, disse mio padre per provocarla. Noi non siamo rifugiati, ribatte prontamente la nonna. Siamo venuti molto prima della partizione. In quel momento Mrinmoye mise la testa fuori dal finestrino e indicò un edificio di cemento a due piani. Ecco, disse, è là che vivono. Mio padre rallentò, abbandonando con cautela la stradina stretta, e si arrestò sul ghiaino. Aprì la portiera con l'intenzione di scendere. Poi, dando un'occhiata sospettosa alle baracche e ai tuguri sui due lati della strada, ci comunicò che sarebbe rimasto in macchina. Aveva sentito dire che in posti del genere le automobili venivano letteralmente smantellate. Rivolto a me, aggiunse: «Resterai con me, non voglio che tu vada laggiù». C'era una nota dura, ostinata nella sua voce. Intuivo che era arrabbiato con se stesso per avermi portato lì. Io però ero deciso ad andare, così scivolai fuori silenziosamente mentre era girato dall'altra parte. Mrinmoye ci guidò verso l'edificio, poi su per due rampe di scale buie. Fummo costretti a fermarci più volte per farci largo tra gruppi di bambini che sciamavano intorno a noi, inseguendosi da un piano all'altro. La tromba delle scale echeggiava delle loro grida e risate. I gradini erano ingombri di sporcizia. Il nudo cemento delle pareti era annerito dalla fuliggine e dal fumo di legna. Fasci di fili elettrici pendevano come festoni chiari, con il rame scoperto nei punti di giuntura dove il nastro isolante si era consumato. Era un edificio di forma allungata, simile a una scatola di fiammiferi, non grande, benché le precarie pareti che dividevano i corridoi dimostrassero palesemente che vi abitavano dozzine di famiglie. Mrinmoye ci condusse fino a una porta del secondo piano e urlò: «C'è qualcuno?» Si udirono all'interno dei passi strascicati e un attimo dopo la porta si spalancò. La mamma e la nonna rimasero di stucco di fronte all'aspetto della donna che comparve sulla soglia. Si aspettavano una persona molto vecchia, forse gobba, con un viso appassito. La donna che ci stava di fronte, invece, era soltanto di mezza età. Aveva lenti spesse, un mento importante e capelli nerissimi, così neri, disse più tardi la nonna, che dovevano essere tinti con prodotti artificiali. Ci guardò stupita, riconobbe Mrin Mohye e volse uno sguardo perplesso nella nostra direzione. «Ti volevano conoscere», disse placidamente Mrin Mohye, e mia nonna intervenne subito per dirle che eravamo parenti. La donna capì immediatamente chi eravamo e in che modo eravamo imparentati con il suo defunto marito. Sorrise e mi diede un buffetto sulla testa quando, obbedendo alle sollecitazioni di mia madre, mi chinai a toccargli i piedi. Allora però diede un'occhiata al suo sari logoro e con un gesto del pollice e dell'indice disse «solo un minuto». Scomparve all'interno chiudendosi la porta alle spalle. Quando riaprì 5 minuti dopo, aveva il volto coperto da uno spesso strato di cipria e indossava un sari di nylon candido. Ci fece entrare nell'appartamento scusandosi per la sua piccolezza e la mancanza di sedie. Ci spiegò che presto si sarebbe trasferita in uno molto più grande e più comodo. Era un peccato che fossimo arrivati proprio in quel momento. L'avevamo colta nel mezzo del trasloco. La stanza era così buia che il neon era acceso sebbene fosse mezzogiorno. A una parete era appeso un grande ritratto in cornice di Rabindranath Tagore. Sotto di esso, da una corda tesa da un angolo all'altro della stanza, pendevano in sconvolgente disordine sari stesi ad asciugare, sottovesti sudice, pantaloni e biancheria da lavare. La mamma e la nonna sedettero guardinghe sul bordo del letto appoggiato a una parete. La nostra parente sedette accanto a loro e incitò Mrin Mohye ad accovacciarsi sul pavimento. La nostra parente preparò il tè e ce lo servì con biscotti graziosamente disposti a forma di fiore su un piatto. Mentre prendevamo il tè, lei e mia nonna fecero una lunga conversazione. Raccontò alla nonna che il suo povero marito era tornato a Dhaka qualche anno prima di morire, nella speranza di convincere il padre a venire in India. «Ma vuol dire che è ancora vivo!» gridò mia nonna chinandosi verso di lei. «Anui?» «Sì, viveva ancora nella vecchia casa, ormai occupata dai musulmani profughi dall'India, gente che per lo più veniva dal Bihar o dall'Uttar Pradesh». La nonna era senza fiato per lo spavento. «La nostra casa», disse. «Vuoi dire che la nostra casa è occupata dai profughi?» «Sì», disse la nostra parente con un sorriso benevolo. «È quello che ho detto. La casa era rimasta vuota dopo la partizione. Se n'erano andati tutti tranne mio suocero e lui non fece alcun tentativo di tener lontani i profughi. Del resto, che cosa avrebbe potuto fare?» «Povero vecchio», disse la nonna con la voce che le tremava. «Pensate come deve essere morire in un altro paese, abbandonato e solo nella vecchiaia». «Ah, potrebbe non essere ancora morto», disse con vivacità la nostra parente. «Non ve l'ho detto?» «Cosa vuoi dire?» chiese la nonna. «Vuoi dire che potrebbe essere ancora vivo? Ma deve avere più di 90 anni!» La nostra parente sorrise e addentò un altro grazioso biscotto, coprendosi educatamente la bocca con il dorso della mano mentre masticava. «Era senz'altro vivo il mese scorso», disse. «Mi ha scritto una semplice cartolina, ma è senza dubbio la sua scrittura. Quando è morto mio marito, gli ho scritto al vecchio indirizzo, benché non avessimo sue notizie da anni. Ma ciò è successo molti mesi fa e non avendo mai avuto risposta, io pensavo, insomma... Poi il mese scorso, ecco che arriva una cartolina. «Posso vederla?» chiese la nonna con impazienza. La nostra parente assentì col capo e prese da uno scaffale una cartolina che porse alla nonna. La nonna la fissava tenendola sul palmo delle mani aperte come un'offerta. «C'è l'indirizzo», mormorò tra sé. «È sempre lo stesso, Jindabahar Lane». Fu costretta a sollevare una mano per asciugarsi una lacrima che le scivolava lungo una guancia. «Riconosco la sua scrittura», disse. «Ha scritto, avrebbe dovuto restare». Restituì la cartolina con un profondo sospiro, poi si alzò in piedi, ringraziò la nostra parente e disse che era ora di andare. Mio padre ci stava aspettando. La nostra parente insistette educatamente affinché restassimo ancora un po', ma la nonna rifiutò con un sorriso. Allora la nostra parente disse che sarebbe scesa con noi per vederci partire e strada facendo prese sotto braccio mia madre e rimasero indietro chiacchierando sottovoce. Trascorse un po' di tempo prima che ci raggiungessero e mio padre cominciava a spazientirsi. Tuttavia, prima di mettere in moto, si profuse in ringraziamenti e la invitò a venire a trovarci. Mentre ci allontanavamo, mi voltai a guardare indietro e la vidi nella cornice del vano di cemento dell'ingresso che agitava una mano. «Che cosa vi stavate dicendo per le scale?» chiese la nonna a mia madre. La mamma si mise a ridere con un certo imbarazzo e spiegò che evidentemente quella donna sapeva tutto di noi, anche se non l'avevamo mai incontrata prima. Sapeva perfettamente che lavoro faceva mio padre e dove vivevamo. Aveva un figlio di 25 anni che aveva superato l'esame di ammissione all'università, ma non era stato capace di trovarsi un lavoro. Andava sempre peggio, non combinava nulla e ciondolava tutto il giorno per la strada insieme ai delinquenti. L'aveva pregata di chiedere a mio padre di trovargli un lavoro. «Poveretta», concluse mia madre, «dobbiamo aiutarla in qualche modo». «Perché?» ribatté la nonna. «Forse qualcuno ha fatto qualcosa per aiutare me quando ero nella stessa situazione? Non lasciarti coinvolgere in questo genere di storie. Quando questa gente comincia a chiedere, non smette più e in ogni caso sembra perfettamente in grado di cavarsela da sola». Mia madre non replicò, sapeva che era inutile discutere dell'argomento con la nonna. «Non è di lei che mi preoccupo», disse la nonna scuotendo con forza la testa. «Sono preoccupata per lui, povero vecchio, tutto solo, abbandonato in quel paese, circondato da...» Non terminò la frase. Quando riprese a parlare, eravamo quasi a casa e la sua voce si era fatta tenera e sognante. «Mi resta una sola cosa da fare nella vita», disse, «ed è riportare a casa quel vecchio». Le si inumidirono gli occhi al pensiero di liberare lo zio dai suoi nemici e riportarlo al paese al quale apparteneva, nella propria patria inventata. È Era la 12ª puntata delle Linee d'ombra di Amitav Ghosh, nella traduzione di Anna Nadotti, leggeva Elia Shilton per Ad alta voce, che è a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e con Chiara Valerio, da riascoltare su Rai Play Radio, naturalmente, come tutte le altre puntate. E come sempre va a chiudersi l'ascolto dell'album musicale del pomeriggio, The Glimpse di Trilok Gurtu, si chiude con l'ultimo brano che è Low Years. Thank you.